La libertà, dono di Dio. Molto spesso vi ho fatto ricordare una scena evangelica commovente. Gesù è sulla barca di Pietro e da lì ha parlato alla folla. La moltitudine di persone che lo seguiva ha reso incandescente il desiderio di anime che arde nel suo cuore e il Divino Maestro vuole che i suoi discepoli incomincino a partecipare del suo zelo. Dopo aver detto di prendere il largo, Duc in altum, invita Pietro a gettare le reti per la pesca. Non intendo ora soffermarmi sui particolari, pur così istruttivi, di quell'episodio. Voglio considerare con voi la reazione del principe degli apostoli di fronte al miracolo. Signore, allontanati da me, che sono un peccatore. Una verità che, senza ombra di dubbio, calza perfettamente alla situazione personale di ciascuno. Eppure vi assicuro che di fronte ai tanti prodigi della grazia operati da mani di uomini, di cui sono stato testimone nel corso della mia vita, mi sono sentito spinto ogni volta più forte ad esclamare: Signore, non allontanarti da me, perché senza di te non posso fare niente di buono. Proprio per questo capisco molto bene quelle parole del Vescovo di Ippona, che sono un meraviglioso inno alla libertà. Dio che ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te. Infatti ciascuno di noi, tu e Dio, conserva la possibilità, la triste sventura di ribellarsi a Dio, di respingerlo, forse implicitamente con il comportamento, o di esclamare: non vogliamo che costui venga a regnare su di noi. Scegliere la vita. Con gratitudine, perché intuiamo la felicità alla quale siamo chiamati, abbiamo imparato che tutte le creature sono state tratte dal nulla, da Dio e per il Dio. Tanto le creature razionali, cioè noi uomini, anche se così spesso perdiamo la ragione, quanto le creature irrazionali, quelle che vagano sulla superficie della terra o abitano nelle viscere del mondo o spaziano nell'azzurro del cielo, capaci perfino di guardare fisso il sole. Ma in mezzo a questa meravigliosa varietà, soltanto noi uomini, sugli angeli va fatto un discorso a parte, ci uniamo al Creatore attraverso l'esercizio della nostra libertà. Possiamo rendere o negare a Dio la gloria che gli compete in quanto autore di tutto ciò che esiste. Questa possibilità tratteggia il chiaroscuro della libertà dell'uomo. Il Signore ci invita, ci spinge, perché ci ama teneramente, a scegliere il bene. Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male, perché io oggi ti comando di amare il Signore Dio tuo, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva. Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza. Vuoi considerare, anch'io mi sto esaminando, se mantieni mutabile e ferma la tua scelta per la vita? Se rispondi liberamente di sì alla voce di Dio, amabilissima, che ti stimola alla santità, rivolgiamo lo sguardo a Gesù mentre parlava alla folla nelle città e nelle campagne di Palestina. Non vuole imporsi. Se vuoi essere perfetto, dice al giovane ricco. Quel ragazzo respinse l'invito e dice al Vangelo: abit tristis, se ne andò triste. Aveva perso la gioia perché aveva rifiutato di dare a Dio la sua libertà. Pensate invece al momento sublime in cui l'arcangelo Gabriele annuncia a Maria il disegno dell'Altissimo. La Madonna ascolta, fa una domanda per capire meglio che cosa il Signore le chiede, poi la risposta sicura: fiat, avvenga di me quello che hai detto, frutto della migliore libertà, quella di scegliere Dio. In tutti i misteri della nostra fede cattolica aleggia il canto alla libertà. La Trinità Beatissima trae dal nulla il mondo e l'uomo in un libero slancio d'amore. Il Verbo scende dal cielo, assume la nostra carne con lo splendido sigillo della libertà nella sottomissione. Ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, oh Dio, la tua volontà. Quando giunge l'ora assegnata da Dio per salvare l'umanità dalla schiavitù del peccato, Vediamo Gesù nel Getsemani soffrire fino al sudore di sangue e accettare spontaneamente, senza resistenza, il sacrificio che il Padre esige, come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori. Lo aveva preannunciato ai suoi apostoli in una di quelle conversazioni in cui si apriva il suo cuore, affinché coloro che lo amano conoscano che egli è la via, non ve ne sono altre, per giungere al Padre. Per questo il Padre mio mi ama, perché io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Il significato della libertà. Non riusciremo mai a capire fino in fondo la libertà di Gesù Cristo, immensa, infinita come il suo amore. Ma il preziosissimo tesoro della sua generosa immolazione ci deve spingere a pensare: perché, Signore, mi hai dato questo privilegio che mi rende capace di seguire le tue orme, ma anche di offenderti? In questo modo riusciamo a capire che il retto uso della libertà consiste nel disporla al bene e che il suo orientamento è sbagliato quando, usando questa facoltà, l'uomo si dimentica dell'amore degli amori e se ne allontana. La libertà personale, che difendo e sempre difenderò con tutte le mie forze, mi induce a chiedere con sicura convinzione, pur cosciente della mia debolezza: che cosa ti aspetti da me, Signore, perché io volontariamente lo compia? Cristo stesso ci risponde: Veritas liberabit vos, la libertà vi farà liberi. Qual è la verità che inizia e porta a compimento in tutta la nostra vita il cammino della libertà? Ve lo dirò sinteticamente con la gioia e la sicurezza che derivano dalla relazione fra Dio e le sue creature. Sapere che siamo opera delle mani di Dio, che siamo prediletti della Santissima Trinità, che siamo figli di un Padre Celso. Chiedo al Signore che ci aiuti a renderci conto di tutto questo, ad assaporarlo giorno per giorno. In questo modo agiremo da persone libere. Non dimenticatelo. Chi non sa essere figlio di Dio non conosce la più intima delle verità che lo riguardano e nel suo comportamento viene a mancare della padronanza e della signorilità che contraddistinguono coloro che amano il Signore al di là di tutte le cose. Siatene persuasi. Per guadagnare il paradiso dobbiamo impegnarci liberamente con una piena, costante e volontaria decisione. Ma la libertà non è autosufficiente, ha bisogno di una bussola, di una guida. L'anima non può camminare senza qualcuno che la diriga. Per questo è stata redenta in modo che, come re, abbia Cristo, il cui giogo è soave, il cui peso è leggero, e non il diavolo, il cui regno è gravoso. Respingete l'inganno di coloro che si accontentano di gridare tristamente libertà, libertà. Molto spesso, tanto schiamazzare racchiude una tragica schiavitù, perché la scelta che preferisce l'errore non libera. Soltanto Cristo ci libera, perché soltanto Lui è via, verità e vita. Domandiamoci ancora alla presenza di Dio: Signore, perché ci hai dato questo potere? Perché hai messo nelle nostre mani la facoltà di sceglierti e di respingerti? Tu vuoi che impieghiamo nel modo giusto questa nostra capacità? Signore, che cosa vuoi che io faccia? Ed ecco la risposta chiara e decisa: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Lo vedete? La libertà acquista il suo autentico significato quando viene esercitata al servizio della verità che redime, quando è spesa alla ricerca dell'amore infinito di Dio che ci scioglie da ogni schiavitù. Cresce in me di giorno in giorno l'impulso di proclamare a gran voce l'insondabile ricchezza del cristiano, la libertà della gloria dei figli di Dio. Questa è la volontà buona, che ci insegna a ricercare il bene dopo averlo distinto dal male. Vorrei farvi riflettere su un punto fondamentale che ci mette di fronte alle nostre responsabilità di coscienza. Nessuno può scegliere per noi. Il grado supremo della dignità degli uomini consiste in questo: da sé, e non per intervento di altri, possono dirigersi al bene. Molti di noi hanno ereditato dai genitori la fede cattolica e per grazia di Dio, da quando abbiamo ricevuto il battesimo, poco dopo la nascita, è cominciata la vita soprannaturale dell'anima. Ma nel corso della nostra esistenza, anche nel corso di ogni nostra giornata, dobbiamo rinnovare la decisione di amare Dio al di sopra di tutte le cose. È cristiano, voglio dire, vero cristiano, colui che si sottomette all'autorità dell'unico Verbo di Dio, senza dettare condizioni, pronto a resistere alla tentazione diabolica con lo stesso comportamento di Cristo. Adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto. Libertà e dono di sé. L'amore di Dio è geloso, non lo soddisfa se ci presentiamo all'appuntamento patteggiando condizioni. Dio attende con impazienza che ci diamo del tutto, senza conservare nel cuore degli angolini bui, ai quali non arrivano il piacere e la gioia della grazia e dei doni soprannaturali. Forse qualcuno può pensare, rispondere affermativamente ad un amore tanto esclusivo non significa perdere la libertà? Con l'aiuto del Signore che presiede a questa nostra orazione, con la sua luce, spero che per voi e per me questo argomento si chiarisca ulteriormente. Ciascuno di noi ha potuto sperimentare che servire Cristo Signore nostro, talvolta comporta dolore e fatica. Disconoscere questa realtà significherebbe non essersi mai incontrati con Dio. Ma l'anima innamorata sa anche che il dolore, quando sopraggiunge, non è che un'impressione fugace. Si scopre ben presto che il peso è leggero e il giogo è suave, perché è Lui a portarlo sulle sue spalle, come ha portato la croce, abbracciandola quando era in gioco la nostra eterna felicità. Eppure ci sono persone che non vogliono capire, che si ribellano al Creatore, ed è una ribellione impotente, meschina, triste, che ripetono ciecamente la sterile invettiva raccolta dal Salmo: spezziamo le sue catene, gettiamo via i suoi legami. Si rifiutano di compiere in eroico silenzio, con naturalezza, senza sfoggio e senza lamenti, il duro dovere quotidiano. Non riescono a capire che la volontà di Dio, anche quando si presenta con sfumature di dolore, di esigenze costose, coincide esattamente con la libertà che risiede soltanto in Dio e nei suoi progetti. Sono anime che costruiscono barricate con la libertà. La mia libertà, la mia libertà. Hanno la libertà e non la seguono, la contemplano, ne fanno un idolo di terracotta nella loro mente ristretta. È questa la libertà? Che frutto ricaviamo da questa ricchezza senza un impegno serio che orienti tutta la vita? Un simile modo di fare si oppone alla dignità, alla nobiltà della persona umana. Manca la rotta, la strada sicura che indirizzi il cammino su questa terra. Queste anime, ne avrete conosciute anche voi, si lasceranno rapidamente trascinare dalla vanità puerile, dalla boria egoista e dalla sensualità. La loro libertà si rivela sterile e produce frutti irrisori anche da un punto di vista umano. Chi non sceglie in piena libertà una retta norma di condotta, presto o tardi subirà le manipolazioni altrui, vivrà nell'indolenza, come un parassita, schiavo delle decisioni degli altri. Sarà esposto ad essere sballottolato da qualunque vento e saranno sempre altri a decidere per lui. Sono come nuvole senza pioggia portate via dai venti, o alberi di fine stagione senza frutto, due volte morti, sradicati, anche se si nascondono dietro a un continuo parlottio, dietro a palliativi con i quali cercano di mascherare la loro mancanza di carattere, di coraggio e di onestà. Non mi lascio condizionare da nessuno, ripetono ostinatamente. Da nessuno? Tutti condizionano e coartano la loro illusoria libertà, che non si arrischi ad accettare responsabilmente le conseguenze di azioni libere, personali. Dove non c'è amore di Dio, si forma un vuoto nell'esercizio individuale e responsabile della libertà. Allora, nonostante le apparenze, tutto è coazione. L'indeciso, l'irresoluto, è come materia plasmabile in balia delle circostanze. Chiunque può modellare a suo capriccio, e a farlo innanzitutto sono le passioni e le tendenze peggiori della natura ferita dal peccato. Ricordate la parabola dei talenti. Il servo che ne aveva ricevuto uno poteva con i suoi compagni impiegarlo bene e farlo fruttare applicando le sue capacità. Invece che cosa decide? Ha paura di perderlo e va bene, ma poi lo sotterra, così non dà frutto. Deve farci riflettere questo esempio di timore malsano di mettere a frutto onestamente le capacità di lavoro, l'intelligenza, la volontà, tutto l'uomo. Lo sotterro, pensava fra sé quell'infelice, ma la mia libertà è salva. Non la libertà ha aderito a qualcosa di molto concreto, all'aridità più povera e più sterile. Ha preso una decisione perché non poteva non scegliere e ha scelto male. Niente di più falso che opporre la libertà al dono di sé, perché tale dono è conseguenza della libertà. Ascoltate bene. Una madre che si sacrifica per amore dei suoi figli ha fatto una scelta, e la misura del suo amore esprimerà quella sua libertà. Se l'amore è grande, la libertà sarà feconda, e il bene dei figli deriva da questa benedetta libertà che comporta il dono di sé, e deriva da questo benedetto dono che è appunto libertà. Ma mi direte, quando abbiamo raggiunto ciò che amiamo con tutta l'anima, smettiamo di cercare? La libertà in tal caso è scomparsa? Vi assicuro che proprio allora la libertà è più operativa che mai, perché l'amore non si accontenta di adempimenti abitudinari, non è compatibile con il tedio o l'apatia. Amare significa ricominciare ogni giorno a servire, con segni operativi di affetto. Insisto, vorrei inciderlo a fuoco in tutti. La libertà e il dono di sé non sono contraddittori, si sostengono a vicenda. La libertà si può cedere soltanto per amore. Non riesco a concepire altro genere di concessione. Non è un gioco di parole più o meno felice. Nel dono di sé volontario, in ogni istante della dedicazione, la libertà rinnova l'amore e rinnovarsi significa essere sempre giovane, generoso, capace di grandi ideali e di grandi sacrifici. Ricordo la gioia che provai quando venni a sapere che in portoghese i giovani sono chiamati os novos, sono nuovi davvero. E io, che ho compiuto molti anni, posso dirvi che nel rivolgermi ai piedi dell'altare al Dio che allieta la mia giovinezza, mi sento molto giovane e so che non mi riterrò mai vecchio. Perché se resto fedele al mio Dio, l'amore mi vivificherà continuamente, la mia giovinezza si rinnoverà come quella dell'aquila. Per amore alla libertà ci leghiamo. Soltanto la superbia può credere che quei legami siano pesanti come catene. La vera umiltà, insegnataci da colui che è mite e umile di cuore, ci assicura che il suo giogo è soave e il suo peso leggero. Il giogo è la libertà. Il giogo è l'amore, il giogo è l'unità, il giogo è la vita che egli ci ha acquistato sulla croce. La libertà dalle coscienze. Quando nella mia attività sacerdotale, ormai lunga, non solo predico, ma addirittura grido il mio amore alla libertà personale, noto in qualcuno un gesto di diffidenza, come se si possa sospettare che la difesa della libertà comporti un pericolo per la fede. Non si inquietino i pusillanimi. Porta a tentarti alla fede soltanto un'errata interpretazione della libertà, una libertà senza scopo, senza norma oggettiva, senza legge, senza responsabilità. In una parola, il libertinaggio. Purtroppo è di questi che molti si fanno propugnatori e questa rivendicazione effettivamente è un attentato alla fede. Pertanto non è esatto parlare di libertà di coscienza nel senso di considerare moralmente valido che l'uomo respinga Dio. Abbiamo già ricordato che possiamo opporci ai disegni di salvezza del Signore. Lo possiamo, ma non lo dobbiamo fare. E se qualcuno deliberatamente assumesse tale atteggiamento, peccherebbe trasgredendo il primo e fondamentale comandamento: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Difendo invece con tutte le mie forze la libertà delle coscienze, che sta a significare che a nessuno è lecito impedire che la creatura renda il culto a Dio. Bisogna rispettare i legittimi desideri di verità. L'uomo ha l'obbligo grave di cercare il Signore, di conoscerlo e di adorarlo, ma nessuno sulla terra deve permettersi di imporre agli altri una fede che non hanno. E reciprocamente nessuno può arrogarsi il diritto di porre ostacoli a chi ha ricevuto la fede da Dio. La Santa Chiesa, nostra Madre, si è sempre pronunciata a favore della libertà e ha respinto tutti i fatalismi, vecchi e nuovi. Ha sempre insegnato che ogni anima è padrona del suo destino nel bene come nel male. E coloro che non si allontanarono dal bene andranno alla vita eterna, coloro che avranno commesso il male al fuoco eterno. È impressionante questo tremendo potere tuo, mio, di tutti, che rivela nel contempo la nostra dignità. A tal punto il peccato è un male volontario che non potrebbe affatto essere peccato se non avesse principio nella volontà. Questa affermazione è così evidente che su essa concordano i pochi saggi e i molti ignoranti che popolano il mondo. Di nuovo innalzo il mio cuore in rendimento di grazie al mio Dio e al mio Signore, perché avrebbe potuto benissimo crearci impeccabili, dandoci un impulso irresistibile verso il bene, ma reputò che i suoi servi l'avrebbero meglio servito se fossero stati liberi di farlo. Quanto sono grandi l'amore e la misericordia di Dio nostro Padre. Di fronte all'evidenza delle sue divine pazzie per i suoi figli, vorrei avere 1.000 bocche, 1.000 cuori e più ancora per poter vivere in continua lode a Dio Padre, a Dio Figlio e a Dio Spirito Santo. Pensate che l'Onnipotente, colui che con la sua provvidenza regge l'universo, non vuole dei servi forzati, preferisce avere dei figli liberi. Ha messo nell'anima di ciascuno di noi, anche se nasciamo proni ad peccatum, inclini al peccato, per la caduta dei nostri progenitori, una scintilla della sua infinita intelligenza, l'attrazione verso il bene, un desiderio di pace duratura. E ci fa capire che la verità, la felicità e la libertà si raggiungono quando ci sforziamo di far germogliare in noi questo seme di vita eterna. È alla portata della creatura rispondere di no a Dio, respingere questo principio di felicità nuova e definitiva. Ma se così fa, non è più figlio e diventa schiavo. Ogni cosa è ciò che, secondo la sua natura, le conviene di essere. Pertanto, quando si muove alla ricerca di qualcosa che le è estraneo, non agisce secondo il suo modo di essere, ma per impulso altrui, e cioè servile. L'uomo è razionale per natura. Quando si comporta secondo ragione, procede per movimento proprio, da par suo. E ciò è proprio della libertà. Quando pecca, agisce al di fuori della ragione e pertanto si lascia condurre da un impulso altrui, schiavo in terra straniera, e dunque chi accetta il peccato è servo del peccato. Dal Vangelo di San Giovanni. Perdonate l'insistenza. È evidente, e del resto lo possiamo verificare spesso intorno a noi o in noi stessi, che nessuno sfugge a qualche tipo di servitù. Alcuni si inginocchiano davanti al denaro, altri adorano il potere, altri la relativa tranquillità dello scetticismo, altri fanno della sensualità il loro vitello d'oro. E la stessa cosa accade in campi più nobili. Ci affanniamo in un lavoro, in un'impresa di proporzioni più o meno grandi, nello svolgimento di un'attività scientifica, artistica, letteraria, spirituale. Se c'è impegno, se c'è vera passione, chi si applica vive da schiavo, si dà con gioia al servizio del compito che si è prefisso. Schiavitù per schiavitù, dato che in ogni caso dobbiamo servire, perché, piaccia o no, questa è la condizione umana, non c'è niente di meglio che sapersi schiavi di Dio per amore, perché a quel punto perdiamo la condizione di schiavi per diventare amici, figli. Ed ecco la differenza. Affrontiamo le occupazioni oneste del mondo con la stessa passione, con lo stesso slancio degli altri, ma con la pace in fondo all'anima, con gioia e serenità anche nei momenti difficili, perché la nostra fiducia non è riposta nelle cose che passano, ma in ciò che dura per sempre. Non siamo figli della schiava, ma ma di una donna libera. Dove ci viene questa libertà? Da Cristo, Signore nostro. Per questa libertà Egli ci ha redenti. Per questo ammonisce: se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. Noi cristiani non dobbiamo chiedere in prestito a nessuno il vero senso di questo dono, perché l'unica libertà che salva l'uomo è la libertà cristiana. Mi piace parlare di avventura della libertà. È così, infatti, che si svolgono la nostra vita e la mia. Liberamente da figli, ripeto, non da schiavi, percorriamo il sentiero che il Signore ha indicato a ciascuno di noi. Assaporiamo questa scioltezza di movimenti come dono di Dio. Liberamente, senza costrizione alcuna, scelgo, perché ne ho voglia, Dio, e mi impegno a servire, a trasformare la mia esistenza in dedicazione al prossimo, per amore di Gesù mio Signore. Questa libertà mi spinge a proclamare che nessuno su questa terra potrà separarmi dalla carità di Cristo. Responsabilità davanti a Dio. Dio dal principio creò l'uomo e lo lasciò in balia del suo proprio volere. Ciò non sarebbe possibile se non avesse la libertà di scelta. Siamo responsabili davanti a Dio di tutte le azioni che compiamo liberamente. Non c'è posto per l'anonimato. L'uomo si trova di fronte al suo Signore e sta alla sua volontà decidere di vivere da amico o da nemico. Questo è l'inizio del cammino della lotta interiore, che è il compito di tutta la vita, perché finché dura il nostro passaggio sulla terra, nessuno può dire di aver raggiunto la pienezza della propria libertà. La fede cristiana, inoltre, ci induce a garantire a tutti un'atmosfera di libertà, che incomincia con l'evitare ogni genere di insidiosa coazione nel presentare la fede. Voglio forse dire che se veniamo attratti da Cristo, allora crediamo, nostro malgrado, siamo costretti e non siamo più liberi? Ebbene, può accadere che uno entri in chiesa contro la sua volontà e contro la sua volontà si accosti all'altare e riceve il sacramento, ma credere non può se non vuole. Ed è evidente che, giunti all'età della ragione, occorre la libertà personale per entrare in chiesa e per corrispondere alle continue chiamate che il Signore ci rivolge. Nella parabola del convito nuziale, il padre di famiglia, dopo essersi accorto che alcuni degli invitati hanno addotto scuse pretestuose, ordina al servo: esci per le strade e lungo le siepi e spingi a entrare tutti coloro che incontri. E forse coazione questa? È violenza contro la legittima libertà della coscienza individuale? Se meditiamo il Vangelo e riflettiamo sugli insegnamenti di Gesù, non confonderemo questi ordini con la costrizione. Osservate come Cristo preferisce sempre suggerire: se vuoi essere perfetto, se qualcuno vuol venire dietro a me. Il compelle entrare non comporta violenza fisica o morale, esprime lo slancio dell'esempio cristiano che sprigiona la forza di Dio. Ecco come esercita la sua attrattiva il Padre: attrae col suo insegnamento senza costringere nessuno. Ecco come attrae. Quando si respira questo clima di libertà, si capisce chiaramente che compiere il male non è liberazione, ma schiavitù. Colui che pecca contro Dio conserva il libero arbitrio quanto alla libertà dalla coazione, ma lo ha perso quanto alla libertà dalla colpa. Potrà dire di essersi comportato a suo gusto, ma non potrà far sentire la voce della vera libertà, perché si è reso schiavo di ciò che ha scelto, e ha scelto il peggio, l'assenza di Dio, e da lì non vi è libertà. Lo ripeto, non accetto schiavitù se non quella dell'amore di Dio. E questo perché, come vi ho detto in altre occasioni, la religione è la più grande ribellione dell'uomo, che non sopporta da vivere da bestia, che non si rassegna, non trova riposo, finché non conosce ed entra in rapporto con il Creatore. Vi voglio ribelli, liberi da ogni legame, perché vi voglio, Cristo ci vuole, figli di Dio. Schiavitù o filiazione divina? Questo è il dilemma della nostra vita. O figli di Dio o schiavi della superbia, della sensualità, dell'egoismo angoscioso in cui tante anime si dibattono. L'amore di Dio indica il cammino della verità, della giustizia, del bene. Se ci decidiamo a rispondere al Signore, la mia libertà è per te, ci troviamo liberati da tutte le catene che ci avevano legati a cose senza importanza, a ridicole preoccupazioni, ad ambizioni meschine. E la libertà, tesoro incalcolabile, perla meravigliosa da non gettare le bestie, va interamente impiegata ad imparare a fare il bene. Questa è la gloriosa libertà dei figli di Dio. I cristiani che si sgomentassero, inibiti o invidiosi, di fronte al libertinaggio di coloro che non hanno accolto la parola di Dio, dimostrerebbero di avere ben misero concetto della nostra fede. Se davvero osserviamo la legge di Cristo, se ci sforziamo di osservarla, perché non sempre ci riusciremo, ci scopriremo dotati di quello splendido vigore di spirito che non ha bisogno di ricercare altrove il senso pieno della dignità dell'uomo. La nostra fede non è un peso, non è una limitazione. Che povera idea della verità cristiana dimostrerebbe chi non ne fosse convinto. Scegliendo Dio non perdiamo nulla, guadagniamo tutto. Chi a scapito della propria anima avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Abbiamo in mano la carta vincente, il primo premio. Se qualcuno, se qualcosa ci impedisce di vedere chiaramente questa verità, esaminiamo il fondo della nostra anima. Forse c'è poca fede, poco rapporto personale con Dio, poca vita di preghiera. Dobbiamo chiedere al Signore, per mezzo di sua madre, che è anche madre nostra, di farci crescere nel suo amore, di concederci di gustare la dolcezza della sua presenza, perché soltanto quando si ama si giunge alla libertà piena. La libertà di non volere mai abbandonare per tutta l'eternità l'oggetto del nostro amore.